È da un po' che non seguo con l'attenzione che dovrei le vicende parlamentari e devo ammettere che finora il nome dell'onorevole Luigi Giacco, progressista, mi era sempre sfuggito. Non so a quale frazione della famiglia progressista appartenga, non so se sia stato eletto col metodo maggioritario grazie al recupero proporzionale, non so niente di lui, so solo che deve trattarsi di un indomito difensore del bene pubblico. E lui, infatti, che insieme a quattro colleghi di cui la stampa non riferisce il nome, nei giorni scorsi ha rivolto un'interrogazione al Ministero delle Finanze per denunciare la penuria di biglietti del Gratta e Vinci nelle rivendite, avanzando l'ipotesi che a ritardare le consegne fosse il guasto una delle macchine stampatrici. E nonostante che il direttore generale del poligrafico, tale Alfredo Maggi, abbia prontamente smentito facendo notare che la produzione oramai è arrivata a 10 milioni di biglietti al giorno, l'anno scorso erano appena 6, e anzi sia pronta una nuova rotativa che è in grado di sfornarne da 15 a 20 milioni sempre al giorno, così che l'output annuale, che nel 95 era di 1 miliardo e 400 mila, potrà agevolmente non che raddoppiare e triplicarsi. Nonostante queste rassicuranti dichiarazioni, l'onorevole Giacco continua a vigilare e sulla Repubblica del 9 febbraio denuncia il disagio che la situazione continua a procurare rivenditori e giocatori, con danno considerevole per l'entrata dell'erario, dice, e mette in guardia da ogni tentativo di impossessarsi del Gratta e Vinci. Nel senso che gli sembra strano che il ritardo duri da tante settimane, che lo Stato sia palesemente impreparato ad affrontare la situazione e si chiede se qualcuno non voglia sabotare il gioco, magari un qualcuno pronto a candidarsi con una società propria per la diffusione dei biglietti. Con il che l'onorevole Giacco, oltre che zelante difensore dell'erario, si rivela anche uomo di sinistra, ancora immune a quel fascino del privato che pure dilaga in tanti settori. Per lui e per chi la pensa come lui, forse si potranno privatizzare l'assistenza e la previdenza, e secondo la linea che il compianto governo Dini aveva ben avviato, consenzienti i progressisti, ma il Gratta e Vinci no. E da qualche parte bisogna tracciare un confine. E il Gratta e Vinci è una cosa seria, è grazie al suo imprevisto successo che le entrate dello Stato sono ulteriormente cresciute nonostante un lieve calo del gettito fiscale dell'anno scorso. Ed è sul suo vigoroso sviluppo che si fondano le migliori speranze dell'amministrazione finanziaria. E nel prossimo futuro, agli attuali concorsi se ne affiancheranno degli altri. Avremo la serie dell'asso contro tutti, la serie delle carte turistiche e persino una mappa del tesoro ispirata al gioco dell'oca. Sarà. Noi abbiamo già avuto occasione di notare nella trasmissione del 5 novembre come dal punto di vista della teoria dei giochi e del calcolo delle probabilità il Gratta e Vinci sia una truffa strabiliante che remunera un rischio altissimo con una parsimonia degna di Arpagone. E non è detto che il fatto che si tratti, per così dire, di una truffa su consenzienti la renda più accettabile sul piano morale, ma i tempi sono duri, non è il caso di indulgere a moralismi, e in fondo è sempre meglio un Gratta e Vinci che una nuova ondata di sacrifici o un altro condono fiscale. E per questo che, pensando all'onorevole Giacco, spiace un po' che il suo ruolo parlamentare gli precluda con ogni probabilità l'ingresso nel prossimo governo, se ci sarà un prossimo governo, in cui i suoi interessi e le sue capacità potrebbero esplicarsi al meglio. E spiace anche che mentre i più aggiornati totoministri fino a ieri prevedevano nel prossimo gabinetto la presenza di un ministro Vinci, nessuno abbia pensato a quanto sarebbe significativa, se non altro sul piano simbolico, quella di un ministro Gratta.